Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. In Deutschland gilt ab heute ein neues Verpackungsgesetz, das für weniger Plastikmüll sorgen soll. Viele Einwegprodukte aus Plastik wie Besteck, Geschirr oder Trinkhalme sind jetzt verboten. Claudia Plass, WDR Berlin. EU-weit sollen diese Produkte aus den Supermarktregalen verschwinden. Hintergrund ist eine entsprechende Richtlinie aus Brüssel von 2019. Jeder Mitgliedstaat muss sie nun umsetzen. Auch Fastfood-Verpackungen und Wegwerfbehälter aus Styropor dürfen nicht mehr in den Handel gelangen. Ware, die Restaurants oder Imbissketten derzeit noch im Lager haben, darf aber noch verkauft werden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze bezeichnet das Verbot von einzelnen Plastik-Einwegprodukten als wichtigen Schritt. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe aber ist skeptisch. Trotzdem könnten Unternehmen eben doch auf andere umweltschädliche Einwegartikel zurückgreifen, so die Befürchtung. Hitze und Trockenheit im Westen von Kanada sorgen für Dutzende Waldbrände. Seit gut einer Woche liegen die Temperaturen dort bei bis zu 50 Grad. Besonders betroffen von den Bränden ist die Provinz British Columbia. Antje Passenheim für WDR Aktuell. Premierminister Trudeau versprach den betroffenen Gemeinden und Farmern Aufbauhilfen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass solch extreme Wetterlagen jetzt häufiger kommen würden. Der Klimawandel spiele dabei eine große Rolle. Trudeau sagte, wir müssen uns jeden Tag vornehmen, unsere Emissionen zu senken und globale Führung zu zeigen, indem wir Verschmutzung im ganzen Land mit einem Preis versehen. In British Columbia haben viele Menschen die Hitzewelle nicht überlebt. Nach Angaben der Behörden wurden innerhalb der vergangenen Woche in der Provinz mehr als 700 plötzliche und unerwartete Todesfälle gemeldet. Dreimal so viele Menschen wie sonst. Mediziner gehen davon aus, dass der starke Anstieg mit der extremen Hitze zusammenhängt. Weitere Meldungen im Überblick. Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, ist auf unter 5 gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz heute Morgen mit 4,9 an. So niedrig war dieser Wert zuletzt vor fast einem Jahr. Der Verband der Hausärzte beklagt mehr Arbeit nach der neuen Empfehlung zum Impfen. Die Ständige Impfkommission hatte vorgestern empfohlen, nach der Erstimpfung mit AstraZeneca einen mRNA-Impfstoff zu verabreichen. Seitdem gäbe es mehr verunsicherte Patienten und Fragen nach Terminverschiebungen in den Praxen, sagte Verbandspräsident Weigelt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen Spanien und Italien im Halbfinale. Spanien setzte sich gegen die Schweiz mit 3:1 nach Elfmeterschießen durch. Italien schlug Belgien in der regulären Spielzeit mit 2:1. Cosmo aus der Region. Nach den tumultartigen Szenen gestern am Düsseldorfer Flughafen gibt es dort auch heute Morgen lange Warteschlangen. Gestern hatte wegen verärgerter Fluggäste die Polizei einschreiten müssen. Mehrere Flieger in die Türkei wurden annulliert, mutmaßlich weil der Check-in zu lange dauerte und das Nachtflugverbot griff. Vom Flughafen Benjamin Sartori für WDR Aktuell. Also auch heute Morgen gehen hier Warteschlangen quer durch den Flughafen. Einige Reisende ärgern sich darüber, viele zeigen aber auch Verständnis, dass es eben dauert, bis zusätzliche Papiere wie ein negativer Corona-Test kontrolliert sind. An einigen Warteschlangen geht es auch eigentlich recht fix voran. Anders sieht es an den Schaltern der türkischen Airline Pegasus aus, wo es schon gestern Tumulte gab. Da fühlen sich viele Passagiere komplett allein gelassen. Heute Morgen wurden da schon wieder 2 Flüge in die Türkei gestrichen. Warum, weiß hier noch niemand. Es gibt auch keinen Ansprechpartner der Airline an den Schaltern. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird heute erst sommerlich und sonnig. Ab dem späten Nachmittag ziehen vom Rhein her Schauer und vereinzelte Gewitter auf. Lüdenscheid kommt auf 24 Grad, Coesfeld auf 26 und Puhlheim auf 27 Grad. Morgen Vormittag erst locker bewölkt. Ab dem Mittag bilden sich bei 18 bis 25 Grad zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Das war WDR Aktuell. Cosmo. Italia. Siamo composti di acqua, nervi, muscoli e parole. Ancora più dell'ossigeno ci fanno respirare. Molto più del fosforo ci fanno anche capire. Corrono nelle vene e fanno battere il cuore. Ti guarderò tua parola si è stravolta dal mio cuore. Ti ascolterò e guarderò come lo dici. Attraverseremo il tempo, voleremo sulle ali delle nostre. Male più di una ferita. Il tuo silenzio mi uccide, è siccità che brucia. Una parola spegne l'incendio di una vita. È costruire una storia e acqua fra le dita. Gente in strada, non trovare scuse, facciamo serata. Guarda questa luna, quasi sembra finta. Tanto lo sapevo che ti avrei convinta. Ci giriamo intorno come terra e sole. Certe cose poi si spiegano da sole. Resti qui con me o continuerà a scappare. Dimmi cosa vuoi fare. Non parliamo né più, ma mai più davvero. Tutto quello che so io non so il capitano, tu non sei il marinero. Tra la gente sopra il golfo ballano le navi, in mezzo al mare mosso il vento sfiora la schiuma delle onde. Le schiene già abbronzate, le spiagge più affollate, e tu che parli al vento, io ballo fuori tempo. Non parliamoci più, ma mai più davvero. Ho visto piovere, cadere già troppe volte il mio cielo. Fra la gente come sabbie mobili, oh, oh, oh, nel fondo del mare, oh, oh, oh. Tra la gente nei bar la notte non è mai finita, non è mai finita. questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra. Thank you. Prima solo reati, no stop, ora nuova lifestyle. Big Glock, Big Rex, no sleep, sfilate, I love you. Moda, droga, impicci, mai più. Avevo cose in casa, ora una nuova casa. Vengo dal crack in casa, la strada è la mia casa. Roma, vicoli, soldi, crimini, non cambio, rimango qui. Siamo nati colpevoli, innocente o colpevole, faccio giustizia da me. Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile. Siamo figli della strada, ho un amico in cella che ancora mi chiama, un altro fuori che spara. Innocente o colpevole, faccio giustizia da me. Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile. Siamo figli della strada, ho un amico in cella che ancora mi chiama, un altro fuori che spara. Il mio amico spara mentre il cielo piange, la madre al colloquio passa il fumo dalle scarpe, il padre 41 bis, una vita da scontare. Meglio morire in cella che morire da infame. Voglio morire in piazza ma pieno di collane. Portavamo pistole dentro le buste del pane. Ora non scappo più se passano le guardie. Quel bambino in strada adesso è diventato grande. Ricciccio, Vegeta, Free Zap, Free Kevin. Liberate tutti quanti i miei fratelli. Free Ciccio, Vegeta, Free Zap, Free Kevin. Ehi, innocente o colpevole, faccio giustizia da me. Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile. Siamo figli della strada, ho un amico in cella che ancora mi chiama, un altro fuori che spara. Innocente o colpevole, faccio giustizia da me. Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile. Siamo figli della strada, ho un amico in cella che ancora mi chiama, un altro fuori che spara. Che poi mi lascerai. al 2, 3, 4 curve, poi c'è un cancello a cui puoi suonare finché non si fa sul 2, 3 la luce di lei. Di lei, Melanie si vive là, dischi sparsi e poesie, mentre fa infusiche, li puoi bere finché non sai più se sia lei a bere te. Melanie vive così, occhi puntati dalla parte più blu, Melanie sciarpe di lana, caffè sul suo letto, un Renoir inchiodato da me. E una bajur che ci appoggia un foulard, se vuole amore. Melanie, quanta sublime follia, le giornate con te, tempo fermo, magie. Un'altra realtà, non conosci altra via, che non sia amore, che non sia amore. Lei vive là, al 2, 3, 7 rose, poi c'è cancello che puoi parcare finché non si fa dentro te la luce di lei. Di lei, la malinconia, onda rosa sulle labbra che ha quando parla di sé, poi guarda in là e in un attimo già ti chiede di te. Come stai? Melanie vive così, occhi puntati dalla parte più blu, sciarpe di lana, caffè, le sue mille teorie sulla fine dei predetta dai Maya in un cerchio che fa la storia al sole. Melanie, quanta sublime follia, le giornate con te, tempo fermo, magie, un'altra realtà, non conosci altra via, che non sia amore. Italia. Sono stanca morta, sono morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro, e anche se male affronto il discorso. Come va? Sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia,

così, si sa, ti spegne poco alla volta, ma accende luci in città. E siccome non sono Dio, almeno per ora, e novembre così illude di fare caldo, ma il sole cade e si infrange a coriandoli. E siccome Dio non sarò, se cade di sole. La tua maglia di verdena che sa di sigarette anche più del sabato sera, ti incazzi come una pantera. Non è una cosa seria, guardavi solo film romantici e dopo giù di psicofarmaci. Ora come stai? E mi fa schifo il posto dove abiti, tre quarti d'ora per vedere gli alberi. Sì, dai, ma dove stai? Odio tutti i tuoi vestiti, piacciono i tuoi amici. Tu sei bellissima, nemmeno te lo devo dire. Tu sei bellissima, ma proprio bella da morire. Tu sei bellissima, molto più bella di me, molto più bella di me. Con gli 883 e fai la cerebrale, ma poi non capisci mezza gag. Non andava bene niente e tu volevi farlo sempre con le luci spente. Vieni quando arriva sera, sembra che ti fai una pera. Te lo devo dire, tu sei bellissima, ma proprio bella da morire. Tu sei bellissima, molto più bella di me, molto più bella di me. Ricordo che a cercarmi poi sei stato tu, yeah. A questo gioco non ci gioco più, no. Ci ripetiamo come déjà vu, yeah. Ci risentiamo come fosse loop, yeah. E quando spingi non ti sento io, e quando piango non mi senti tu, no. di non scrivermi stronzate ore diamanti. Lo so che cosa guardi di me e so dove mi guardi. Lo so che cosa guardi di me e so dove mi guardi. Yeah. Ti ricordo che a baciarmi poi sei stato tu. Yeah. No, no. Ti ho detto di non farlo più. No, no, no. Voglio uscire per i casi miei. Sì. Stare fuori sì fino alle sei. Come? Tornare a casa e poi trovarti giù. Yeah. Non voglio dare spiegazioni miei. No, no, no. Sto bevendo un altro cocktail, cocktail. Un gin tonic molto forte, forte. Smetti di farmi le poste, stalker. Rimaniamo amici se vuoi, sì, forse. Non cercarmi quando sono online. Vado dove vanno le mie nacche. Io smonami se la vi bye bye. E non mi importa se stasera farò tardi. Non scrivermi stronzato re diamanti. Lo so che cosa guardi di me e so dove mi guardi. Lo so che cosa guardi di me e so dove mi guardi. Yeah. Adesso aspetto la notte che si avvicina. Fata Morgana, foto e morfina. Non sono più la tua bambina. Pronto soccorso, la tua rovina. Adesso aspetto la notte che si avvicina. La notte ci ha travolto con la sua passione, ma l'amore si misura al mattino per colazione. Ogni litigio che decide se questo temporale ci ha reso più forte o ci divide. Se il peggio ha avuto la meglio, a volte ancora ti cerco nel letto appena sveglio con me, ed è una sensazione che non va più via. Continuo a domandarmi sei mai stata mia. A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi. Il mio cuscino sa ancora di baci a caffè. Poi perché non ti cerco più? Ma questa America mi butta giù. Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. È difficile da mandare giù. Ma chi l'ha detto che non ti amo più? Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. Sai farmi perdere il lume della ragione, forse perché metti a nudi i miei contrasti. Quando vago al buio senza una direzione, do troppo peso al giudizio degli altri. Grazie a te conoscere me stesso in un gioco complesso di specchi, vedermi riflesso. Devo curare ogni eccesso, imparare a godermi il presente qui e adesso. A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi. Il mio cuscino sa ancora di baci a caffè. Poi perché non ti cerco più? Ma questa America mi butta giù. Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. È difficile da mandare giù. Ma chi l'ha detto che non ti amo più? Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. E mi sembra una guerra in cui tu vuoi che perda solo per restare qui con te sull'erba e mi prendi la mano. Se potesse tornare indietro, forse tornerei da te. Poi perché non ti cerco più? Ma questa America mi butta giù. Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. È difficile da mandare giù. Ma chi l'ha detto che non ti amo più? Lascia perdere che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. Adesso che non so raggiungerti, però che te lo dico a fare? che mi manchi. Non sai mentire come Mastroianni. Cosmo Italia. Italia. Che mi hai preso per la tua metà. Non ti ho dimostrato amore, ma è così che va. Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar, ma eravamo chic come due clochard. Ti ho preso dei fiori morti come sempre, lo so bene che ti piacciono. Ma mi dici cosa c'è da non piangere mentre tutti ci guardano. Oh, lo sai che ti amo davvero, sono qua giù. Non fare così, ti prego, scendi che ho due biglietti in mano. Vieni, andiamo, la la la la la. Andiamo a Las Vegas, negli hotel a 5 star. Senza money, ma magari beviamo un po' e ci sposiamo anche per sbaglio. Chissà se a Las Vegas poi ci prendono per due star. Senza money, ma magari li facciamo là e ci compriamo un Caravaggio. Io sono ancora quello che fuma e non parlo. Tu sei rimasta un'altra volta fuori casa e ti ho raccolto dalla strada una collana. Spero che ti piaccia veramente. Non capisco se vuoi stare insieme, se vuoi farmi male o farmi bene. Vieni come una di queste sere. Oh, lo sai che ti amo davvero, sono qua giù. Non fare così, ti prego, scendi che ho due biglietti in mano. Vieni, andiamo, la la la la la. Andiamo a Las Vegas, negli hotel a 5 star. Senza money, ma magari beviamo un po' e ci sposiamo anche per sbaglio. Chissà se a Las Vegas poi ci prendono per due star. Senza money, magari li facciamo là e ci compriamo un Caravaggio. Prendi le fish, vai pure all in. Dai, sposami su una rulla. Prendi le fish, vai pure all in. Dai, sposami. Inizierà una nuova grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto, mito, donne mi scansano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni, a 30 anni ho perduto un dito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, cantolino alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo piano scrivo mille lettere e faccio rumore. Lotto col silenzio, ma ce la farò. Tengo la mia musica e lascio l'amore. Io sarò immortale e la mia amata no. Rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tour. Entro in classifica perché la fame è cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, più romantico, sotto palco scompaio, puff come poro talco. Che guaio, bruciano il mio contratto, che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano, parlano, mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce. E non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo. Giorni che se mi vuoi lasciami stare e non c'è nessuno nei dintorni che dentro me ci sappia guardare. È Roma che è una città di mare, mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare. Tanto non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre, per cui valga la pena restare. Quindi stanotte abbracciami alle spalle, fammi addrizzare i peli sulla pelle. Prendiamoci una scusa sotto casa e poi portiamocela su. Fermiamoci, prima o poi, senza volerlo. Al reparto dei superalcolici, che ci fai? Scaldo l'inverno. La mia città è un presepe in mezzo alle montagne, bianche ed ostinate come vecchie cagne. Davvero io non posso più tornare solamente a salutare e a sincerarmi che nessuno piange. Ti prego di raccogliermi la testa, come se fosse l'ultima che resta. Io me ne sono accorto a Santa Marinella, io e te siamo un pianeta e una stella. Voglio solamente diventare deficiente, farmi male, citofonare e poi scappare. Tutto questo arrivare in questo momento la fine del mondo. Mit Mathis Dierkes und Katharina Niesen um 8 Uhr.